yo, yo, check it out. Talvolta. Si fa? Vai, allora. Un po' di nuove. Ah! Ok, altre due nuove. Una, questa è in francese. Saranno in uno split che uscirà prima o poi. Baguette, uno split con i Da Hitro. Questa c'ha i capotasti. Uno. Arriva. Abbiamo stretto e ti appena accenderà che sono cerca di quello che sono stati. Raga, special guest, fucking Le Last Fuck. Allora, c'è una picca, vai. Non abbiamo mai provato, non abbiamo mai fatto un cazzo, quindi è come viene. Facciamolo. Rimane come cicatrice in faccia, una marcia che decidiamo a zuma. Stop! Yeah! Stop! Back! fottuto applauso per il Leas. Questa è la fiera dell'amicizia. È bello la musica, fare tanti amici e amiche. E facciamo un altro po', un'altra nuova. Si chiama Recisione e parla di avere le mani staccate in terra. Prima canzone in inglese in Italia. Ripete una cosa sola. Le mani non più attaccate alle braccia. Le mani non più attaccate alle braccia. Due classi per cadere a cagare. Che pensiamo, che ci appello non voglio, ci va sento, non senti, mi sottoposto, mi sottoposto, mi sottoposto, melodia di, cambio parte del rumore, il senso, delle cose che sentiamo, che pensiamo, che ci appello. l'ultima. Dopo di noi Eremo e Oine. Grazie a chiunque sia venuto o venuta oggi. È una serata un po' speciale, una cazzata, però ci fermiamo per un attimo, scriviamo della roba, forse registriamo delle cazzate. Settimana scorsa abbiamo suonato a Perugia e Bari, è stata una roba incredibile, soprattutto per il supporto dei soliti quattro stronzi che ci seguono ovunque. Quindi giocare in casa è sempre facile, è bello e faccio un sacco di fischi. L'ultima, grazie Pelle, grazie Cox e grazie a chi ha cucinato, perché it was a fucking blast. Ultima, fuori dal cazzo. Abbiamo le magliette nuove. Ultimamente il mondo non abbiamo per me. Vuol dire puzza di bruciato.